che mi porta a te, Signore. La mia vita è un abisso, un baratro profondo senza te. E un baratro profondo senza te. Cerco il tuo amore, la risposta ad ogni mio perché, Signore. La mia vita è un abisso, un baratro profondo senza te. E un abisso e un baratro profondo senza te.